Ora, dopo cena, Ai Wan cominciava ad avere veramente sonno. Guardò l'orologio, era quasi mezzanotte e aveva appena finito il componimento d'inglese. Lo rilesse, gli parve buono, nonostante sapesse in anticipo che gli sarebbe stato restituito crivellato di segni rossi. Miss Maitland l'avrebbe corretto in molti punti imprevisti. Ma il compito era stato fatto con diligenza. Egli aveva scelto come argomento la storia di Sun Yat-sen e il racconto gli era riuscito bene. Già si preparava dilettosamente a rileggerlo quando udì un leggero fruscio vicino al letto. Non alzò neppure gli occhi. Era soltanto Peonia che svolgeva i piumini e portava il tè bollente da collocare vicino al capezzale. Dopo un po' la sentì vicina a sé e poi, come già altre volte, sentì la mano di lei sulla sua spalla e la morbida guancia contro i suoi capelli. Di colpo si ricordò del viso di Peonia quel pomeriggio sullo sfondo degli oleandri. Si scostò, brontolando: «Per quanto tempo ancora ti ostinerai ad operare quel disgustoso profumo?» «Per sempre», fu l'impertinente risposta, «perché mi piace. E tu non studiare più, devi essere esaurito, è ora che tu vada a letto». «Tu non sai niente di quanto debbo o non debbo fare», disse lui. «Se non hai ancora finito, allora vuol dire che sei uno stupido», lo rimbeccò lei. Gli toccò la guancia col palmo morbido e delicato e soggiunse: «E io so che stupido non sei». Egli sentì con turbamento il proprio cuore per un attimo accelerare i battiti. Erano stati per anni compagni di giochi, egli sapeva, al pari di lei, che Peoni era solo una domestica, alla quale in casa avevano permesso di considerarsi qualche cosa di più per la simpatia di cui tutti la facevano oggetto, specialmente da quando erano morte le sorelle di Aiwan. Insomma, fra lui e Peonia si era stabilito un rapporto di fratellanza, per cui, ad esempio, Aiwan non avrebbe mai parlato di Peonia come della piccola schiava della padrona. Non ci pensava, era così abituato a lei. E lei, dal canto suo, non parlava della propria condizione. Negli ultimi mesi si era però fatto strada un sentimento nuovo, qualche cosa di cui Aiwan sentiva il bisogno e che pure odiava. Era quel modo di Peonia di mettergli una mano sulla spalla e la guancia sui capelli. Era l'impulso per cui egli, qualche volta, avrebbe voluto allungare il braccio e cingerle la vita, nonostante si sforzasse di resistere alla tentazione e se ne vergognasse. Non aveva mai, sino allora, materialmente compiuto quel gesto, ma ci aveva pensato e forse, se non avesse appartenuto alla banda dei compagni, avrebbe ceduto. Voleva peraltro distinguersi da Aiko, il quale ronzava continuamente attorno a Peonia, ora toccandole la guancia, ora afferrandole una mano, ora cingendole con un braccio la vita. Quando si abbandonava a queste confidenze, Peonia si sottraeva quasi con violenza. Una volta l'aveva perfino graffiato e per parecchi giorni l'audace aveva dovuto comparire in pubblico con quattro segni sulle guance. Aveva dovuto nascondersi, poiché tutti sanno che quando un uomo mostra quattro bei segni paralleli su entrambe le guance, c'entrano sempre due mani femminili. L'avventura suscitò scalpore in casa e la signora Wu volle parlare da sola a sola con Peonia, la quale poco dopo comparve piangente nella stanza di Aiwan per dichiarargli: «Lo odio, quel tuo fratello è sempre stato un malvagio». Aiwan non volle domandare in che forma si manifestasse la malvagità di Aiko, ma aveva sentito un vago rimescolio nel sangue e aveva detto solennemente a Peonia: «Io sarò sempre buono con te, Peonia». Ella aveva singhiozzato un poco, poi, sospirando, aveva alzato gli occhi verso di lui e sorriso. «Tu non puoi che essere buono», aveva detto poi. Aiwan ora si vergognava del piacere che provava quando Peonia lo toccava e si scostò da lei. «Adesso che sei cresciuto, non mi vuoi più il bene di un tempo», mormorò lei. «I miei sentimenti non sono cambiati», replicò Aiwan con forza. «Sono come sono sempre stato». «Sono così sola», mormorò Peonia. Egli si alzò e chiuse bruscamente il libro che aveva davanti. «Vattene», disse. «Non ti voglio più qui da me all'ora di andare a letto, Peonia». Parlava burbero perché aveva paura di lei. Temeva che ella piangesse o che andasse in collera con lui per quell'ordine che sconvolgeva una vecchia abitudine. Peonia infatti lo aveva sempre assistito all'ora di andare a letto. Era lei che tirava le tende e spegneva il lume. Apri le finestre, le comandava sempre. D'estate ella obbediva, ma d'inverno lo supplicava. Non stanotte, fa molto freddo. E lui di sotto ai piumini, se non apri le finestre, mi alzerò io quando te ne sarai andata. E così ella aveva sempre dovuto obbedire, sia in estate, sia nella stagione rigida. Ora, Aiwan si voltò dall'altra parte, così da non vedere il viso afflitto di Peonia, ma la sentì ridere e si voltò di scatto. Peonia non era per nulla offesa. Sorrideva con un'espressione canzonatoria negli occhi, allegra. Sei troppo grande, disse. Ormai sei un uomo e dunque non mi vuoi più, piccolo Aiwan. Un omone sei diventato. D'un balzo egli le fu accanto e la spinse con forza verso la porta. Ella gli afferrò le mani e resisteva perdutamente ridendo finché gli riuscì a spingerla fuori e a chiudere l'uscio a doppia mandata. Ma gli restò nelle mani la morbida impressione delle mani di lei che pareva fossero state attaccaticce. Se n'era liberato, finalmente. Dietro la porta chiusa stette in ascolto. Silenzio. Allora fu tentato di girare di nuovo la chiave per vedere se Peonia fosse ancora lì, ma si trattenne. Certamente ella era ancora lì, sorridente, in tacita attesa. Egli non avrebbe riaperto la porta. Si voltò e cominciò a svestirsi, facendo apposta rumore coi piedi sul pavimento. Quando fu lavato e pronto per andare a letto, s'avvicinò alla finestra e la spalancò fragorosamente. Se fosse stato ancora lì, avrebbe sentito. Aiwan provava un rimescolio interno, come un'ondata di desiderio di andare a vedere se Peonia c'era ancora, ma se c'era, avrebbe fatto di tutto per rientrare ed egli aveva paura di lei. Lui si era votato alla patria e poi non voleva essere come Aiko. Saltò in piedi sul letto e tirò le tende. E di nuovo sentì nelle nari il vago odore di oppio che lo perseguitava. L'immediato sentimento di odio che provocò in lui cancellò il ricordo di Peonia. Pensò che no, che non sarebbero riusciti a infliggergli per sempre quella tortura. E così, lentamente, s'addormentò. Il gruppo si riuniva nell'aula d'inglese. Fra tutte era la più sicura perché l'università dava sempre ai professori stranieri le aule più scadenti, in un minuscolo edificio appartato della città degli studi. Era una costruzione a due piani con un'unica scala e toccava a Peng Liu indugiarsi alla sommità della scala con l'aria di chi aspetti qualcuno, ma in realtà per montare la guardia. Peng Liu era una spia nata e perciò la scelta era caduta su di lui. I suoi occhietti vedevano tutto. Aveva il dono di fingere la stupidità e l'ignoranza in un modo così magistrale da trarre in inganno chiunque. Se qualcuno fosse salito, Peng Liu avrebbe salutato rumorosamente e gli altri di là avrebbero sentito e subito si sarebbero sparpagliati attraverso le porte nelle varie aule del piano, dove si sarebbero poi fatti trovare occupati a leggere in piccoli gruppi o a coppie o magari soli. Ma finora nessuno era comparso su per la scala, benché le riunioni si ripetessero ormai da un paio d'anni e i partecipanti avessero da gran tempo aderito alla Confraternita Nazionale dei Patrioti. Una denominazione cotesta che i cospiratori si erano autoaffibbiati dal giorno in cui il governo aveva decretato che tutti i comunisti dovessero essere passati per le armi. Loro non erano comunisti, alla distinzione ci tenevano, loro erano dei patrioti. Non potranno mica fucilare dei patrioti, aveva detto En Lan, contraendo il volto contadino in un largo sorriso. Ma quando la rivoluzione verrà, allora tutto sarà diverso. Saremo noi, allora, che ammazzeremo tutti gli altri. Aiwan conosceva tutti quelli che si adunavano in quell'aula e tuttavia gli pareva di non conoscere nessuno, tranne En Lan. Conosceva i nomi e le facce di 23 individui, 9 dei quali erano ragazze. Ma ad eccezione di Enlan e in parte di Peng Liu, non avrebbe saputo dire chi fossero né se erano ricchi o poveri. Prima di incontrarsi in quell'aula, i 23 non si erano mai visti né conosciuti. Quando Aiwan aveva cominciato a frequentare le riunioni, i membri erano in tutto 11, di cui due soltanto ragazze. Di dove erano venuti gli altri? Aiwan non avrebbe saputo dirlo. Sapeva soltanto che, stando alle norme, quando qualcuno sopravveniva doveva presentarsi, dopodiché Qualcuno fra i già iniziati si alzava a sua volta e garantiva che non si trattava di una spia. Aiwan aveva finito col far parte del gruppo attraverso Enlan. Venendo all'università, lo aveva subito ritrovato e da lui aveva saputo dell'opera dei cospiratori. Enlan aveva poi garantito per lui e Aiwan gliene era stato grato, pur domandandogli come mai si era indotto a tanto, se lo conosceva appena di nome. No, ti conosco bene, gli aveva detto e risposto Enlan. Ne so quello che hai fatto per me. Non ti importa di chi sono figlio? Mi importa poco davvero, aveva risposto Enlan. Quello che conta è che tu sei tipo adatto per noi. E così era. Quantunque nessuno dei 23 figurasse nel novero dei vecchi amici di Aiwan e nemmeno fosse dello stesso stampo dei figli dei ricchi che erano stati suoi compagni di scuola, il giovane sentiva che davvero essi costituivano la compagnia più adatta per lui. Poco gli importava che non sapessero chi era, preferiva anzi che non ne sapessero nulla, per la vergogna che provava al pensiero di essere il figlio del signor Wu, uno dei più ricchi personaggi di Shanghai. Così, quando gli capitava di farsi un piccolo strappo all'abito o di perdere un bottone, non faceva nulla per rimettersi in ordine, immaginando di assumere in quello stato un aspetto più povero. Arrivò persino ad arruffarsi apposta i capelli, solitamente lisci, in modo da somigliare di più a Enlan, il quale lui portava chiome asciutte e scomposte, rese ispide e dure dai venti polverosi e dal dardeggiante sole dei deserti del nord. Pareva ad Aiwan che qui soltanto, in quel suo mondo nuovo, fosse la vita, una vita ardente e buona. In casa sua nessuno pensava a gente che non fosse della cerchia dei familiari. Ciascuno faceva il proprio comodo, sempre con fini egoistici, e se c'era un riguardo non era mai usato a persona non della famiglia. Che cosa gli importava la vita che pulsava fuori? Nemmeno Aiwan ci aveva mai pensato in modo particolare, fino al giorno in cui gli era capitato fra mano il libro che lo aveva mandato in prigione. E tuttavia non riusciva a dolersi dell'esperienza vissuta in carcere, perché era stato proprio là che aveva conosciuto Enlan. Perché ti hanno messo in prigione? Gli domandò un giorno Aiwan quando si furono conosciuti meglio. Ora Aiwan sapeva dell'amico un particolare curioso, questo. Quando c'era qualche cosa che Enlan desiderava fosse noto, egli lo scriveva su di un pezzo di carta anziché parlarne. Cattivo e stentato parlatore, scriveva con vena facile e con gran ricchezza di parole. Così ora, come gli accadeva spesso, l'amico non rispose subito alla domanda. Poi disse: ti darò la risposta per iscritto. Alcuni giorni dopo gli consegnò alcuni fogli di carta strappati dal quaderno d'inglese. Leggi questo in camera tua, gli disse, e poi brucia tutto. Aiwan, quando fu solo quella notte, lesse quanto segue. Aiwan, quando tu entrasti in prigione, io c'ero da 73 giorni. 73 giorni che mi erano parsi 10 anni. Appoggiando il viso alle sbarre dell'angusta finestra, vedevo un piccolo triangolo di cielo sovrastante il muro della prigione, niente altro. Era appena un frammento di cielo, mi pareva non più grande della pezzuola di panno nero con la quale mia madre soleva avvolgersi il capo per ripararsi i capelli dalla polvere dei deserti. Ti ho già detto che io provengo da un villaggio del lontano settentrione, da una zona cioè spazzata dai venti del deserto di Gobi, a portatore di sabbie gialle. Verrà giorno, così hanno sempre detto gli anziani del mio villaggio, che esso sarà sepolto dalla sabbia e con esso la gente. I cadaveri, nell'estrema asciuttezza della sabbia del vento, non conosceranno dissolvimento. Così, in piedi, col volto contro le sbarre della prigione, fissando quel frammento di cielo, io abbandonai ogni speranza e si fece strada in me l'idea, fu pochi giorni prima del tuo arrivo, che forse non mi sarebbe stato mai concesso di giacere asciutto e intatto nella morte sotto le sabbie del mio villaggio. No, il mio corpo sarebbe probabilmente stramazzato nel cortile della prigione, crivellato di palle, per finire poi nella terra calda e molle di questa città meridionale per metà straniera. Nel mio villaggio nessuno mai avrebbe saputo che cosa era avvenuto di me, e nemmeno perché non sarei più comparso fra i miei. Il mio villaggio è sempre stato troppo lontano perché io potessi tornarci a Capodanno o in qualunque altra festività. Non ci sono mai potuto andare che d'estate e Persino in estate mi toccava fare a piedi buona parte della strada perché il prezzo del biglietto ferroviario, anche a prenderlo per le classi dei Paria, dove i vagoni non hanno sedili, è superiore alle mie possibilità. Ma negli anni precedenti al giorno in cui i genitori mi sposarono alla ragazza che non vedrò mai, io sentivo che era mio dovere andare a casa perché avevo tante cose da dire e da raccontare. Tutti nel villaggio, tutti i membri delle 26 famiglie che lo compongono sono più o meno miei parenti e tutti hanno dato il possibile perché potessi pagare le tasse scolastiche. Se non avevano denaro da mandare, le donne delle famiglie più povere mi facevano le scarpe, le calze o il soprabito. Per nessuna cosa al mondo avrei mai detto loro che dopo alcuni mesi di soggiorno a Shanghai non portavo più quelle robe perché gli studenti eleganti della città moderna si facevano gioco di me. E non me ne dolevo mica, anch'io ridevo. Anch'io sapevo di essere buffo nelle lunghe robe troppo flosce di cotone azzurro e nei rozzi scarponi del settentrione. Sapevo bene che le mie donne si erano dette a vicenda: sarà meglio che gli tagliamo gli abiti con un buon margine di larghezza, può farsi più alto e con tutte le buone cose che si mangiano nel sud diventerà certo più grasso. Così, oltretutto, gli abiti che mi mandavano erano sempre troppo grandi, visto che né crescevo di altezza, ne ingrassavo e non mi era proprio possibile sopportare, per amore delle mie donne, il ludibrio dei compagni. Andò a finire che trovai un rigattiere dal quale si rifornivano tiratori di rickshaw e altra poveraglia. E poiché gli indumenti erano di stoffa robusta e fortemente confezionata, vendevo facilmente e il rigattiere mi corrispondeva un buon prezzo. Col ricavato mi comperavo le divise di cotone azzurro, di quelle che portano gli studenti che desiderano si sappia che sono dei patrioti. Ne indossavo una al giorno in cui fui condotto in prigione. Tu mi hai domandato, Iwan, perché fossi finito in prigione. La storia è semplice. Un giorno entrarono dei soldati nella nostra aula d'inglese e gridarono il mio nome. In quel momento io stavo leggendo la poesia di un poeta inglese. Non la capivo bene, ma attraverso le parole semi-incomprensibili sapevo che si parlava di bellezza. Studiavo l'inglese da 3 anni. A casa, nel villaggio, laggiù, tutti facevano ressa attorno a me nelle sere d'estate e mi pregavano: parla un po' l'inglese, fatti sentire. E io allora dicevo con voce forte e chiara in inglese: io mi chiamo Liu Enlan. Come state? Io sto bene, grazie. E tutti ascoltavano in silenzio. E quando finivo scoppiavano a ridere, ma ridevano proprio a crepapelle, fino alle lacrime. Pare di sentire una gallina chioccia, dicevano. Ora dici un po' che cosa significa. E ancora ascoltavano, ammirandomi per la mia scienza. E mio zio, Liu Yi, il più anziano del villaggio, approvava sempre col capo, succhiava la pipa e diceva: sempre più vedo che non ci siamo sbagliati, decidendo di mandarlo a scuola. Nessuno di questo villaggio è mai andato a scuola, ma i tempi sono cambiati. Egli farà onore a tutti noi, otterrà un buon posto nell'amministrazione del governo, grazie a tutto il suo inglese, e ci ripagherà tutti ad usura. Sì, dicevo io, così sarà. Guardavo in giro la cerchia dei volti e li amavo per quei loro occhi innocenti e pensosi nelle facce aggrinzite e cotte dal vento. Ai loro piedi erano dei bambini che mi guardavano anch'essi stupefatti in silenzio. Per loro ero un eroe. Quando mi fossi laureato con onore, avrei ottenuto un buon posto e avrei fatto tutto per loro. Avrei persino assoldato un buon maestro e tutti i ragazzi sarebbero andati a scuola. Quella mattina dell'arresto a scuola avevo preso contatto, per così dire, attraverso le parole straniere con la bellezza. Vagavo solo come una nuvola. Miss Maitland diceva lentamente: è una poesia scritta da un grande poeta inglese, da Wordsworth. In quel momento qualcuno batté la porta e tutti guardammo da quella parte, poi un colpo più violento la spalancò brutalmente. Era una porta leggera, tu sai bene come si apre al minimo soffio, come dunque avrebbe potuto resistere al colpo vibratole dal calcio di un fucile. Irruppero soldati, una ventina, e uno gridò: dov'è Liu Enlan? Udendo il mio nome mi alzai. Nessuno fiatava. Sei tu, Enlan? Gridò il sergente che comandava il plotone. Sono io, risposi tranquillo, per quanto fossi stupefatto. Sei in stato d'arresto, tuonò il sergente. Via con noi. Ma perché? Ma perché? Balbettai, quasi incapace di parlare. Non riuscivo a comprendere il perché dell'arresto e nemmeno come conoscessero il mio nome, ignoto a tutti, meno che ai miei professori e a una piccola cerchia di amici. Credo che si tratti di un errore, dissi al sergente. Nessun errore, mi rispose colui. Sei tu, Liu Enlan, del villaggio di Liu, nella provincia dello Shenzi. Sono io e quello è certo il mio villaggio, risposi. Ma perché mi arrestate? Il sergente arrossì di collera. Tu osi parlarmi? Ruggì. Con un balzo mi fu addosso, mi prese per il colletto e quasi mi fece cadere. Fui costernato nell'accorgermi che il colletto era strappato e che avrei dovuto comperarmene uno nuovo, ma mi mancava il tempo di perdermi in considerazioni perché il sergente era un omaccio e la sua collera pareva una furia. Mi sbatacchiò sul banco gridando ancora: Ora, ora ti faccio vedere io! Volli resistere, ma sapevo che era un'idea sciocca, con tutte le armi dei soldati puntate su di me. Davanti a quello spettacolo, Miss Maitland si incollerì. Conosco la sua faccina mite sotto i capelli bianchi divisi in due bande, un modello di compostezza e dignitore. Nessuno di noi l'aveva mai vista altrimenti che così, ma improvvisamente fu addosso al sergente e, afferrandolo per un braccio, glielo scosse con forza. Non permetto che vi comportiate in questo modo nella mia aula! Disse con cipiglio. Basta! Dico basta! Mi capite? Parlava in inglese e il sergente ci capiva poco, anzi nulla. La guardò con gli occhi di un gattone che guarda un sorcio inferocito. Che cosa dice questa femmina straniera? Mi domandò. Vi chiede di smetterla, tradussi. Dille che sei in arresto. Mi arrestano, dissi a Miss Maitland in inglese. Perché? Domandò lei. Non lo so, risposi con sincerità. Assurdo! Esclamò Miss Maitland. Domandalo questo bestione e digli che io dico che è un bestione. Osai soltanto dire, questa onorevole signora straniera domanda perché sono in arresto. E tu digli che non è affar suo saperlo. Ribatté con alterigia il sergente. Dice, tradussi a Miss Maitland, che non può dir nulla. Assurdo! Dico che è assurdo! Commentò Miss Maitland. Digli che alzi i tacchi e che la smetta. Digli che non è permesso irrompere così in classe e arrestare i miei studenti. Aggiungi che ne parlerò al console inglese. Io esitavo. Digli tutto quello che ho detto, ordinò Miss Maitland. Ella dice, cominciai, che domanderà al proprio console di indagare. Il sergente la guardò con occhi feroci, ma lei sostenne lo sguardo con uguale espressione, tanto che il sergente pensò bene di voltarsi con dignità. Ho avuto ordine di arrestarti, disse con accentuata alterigia. Ma perché? Domandai questa volta per conto mio. Insomma, fece eco Miss Maitland. Ma prima che lei avesse potuto dire altro, il sergente aveva ordinato ai suoi uomini: Avanti, marsch! E subito i soldati mi afferrarono per le braccia e mi spinsero fuori, prima che qualcuno avesse potuto darmi manforte. Se di manforte era possibile parlare. Gli studenti sedevano impietriti nei loro banchi e Miss Maitland non poté fare altro che strillare la propria indignazione. Fui avviato per la strada, poi spinto oltre la soglia di un grande portone e finalmente rinchiuso in carcere. In un mio componimento ne avevo parlato. Anche da noi, avevo scritto, abbiamo una prigione modello. Si dice che sia una delle migliori del mondo e i turisti inglesi ed americani vengono a vedere come la Cina tratta bene i propri prigionieri nella prigione modello. Ora ero proprio in una cella di quella prigione. La porta mi fu chiusa alle spalle, mi guardai attorno e in verità non posso dire che la cella fosse scomoda, credo fossi il primo a esservi rinchiuso. Era pulita, ben diversa da come tu la vedesti quando già centinaia di disgraziati ci erano passati. Certo, la cella era di gran lunga migliore di gran parte dei tuguri di terra che costituiscono le abitazioni delle popolazioni dei villaggi, come quello mio natio, e oso dire per nulla inferiore alla stanzuccia che era tutto quello che mi ero potuto permettere. Allorquando, arrivato a Shanghai, non potei subito usufruire del dormitorio universitario. Nella cella c'era un letto di assi, una coperta di cotone azzurro scuro, pulitissima, e alcuni mattoni sovrapposti che facevano da sgabello. Poi la finestrella. Nella casa in cui sono nato non c'erano finestre, ma in compenso c'era la porta che si apriva sull'aia, che faceva anche da cortile, di guisa che il cielo, il grande cielo, era sempre visibile. Da ragazzo sedevo sul gradino della soglia e osservavo mio padre e mia madre in atto di battere il frumento e lanciarlo poi al forte vento asciutto per separare i chicchi dalla pula. Ma il vitto della prigione era certamente migliore di quello che mi davano quando ero ragazzo. Tanto era buono che in realtà lo consumavo con gusto e quando la seconda mattina ebbi finito la mia colazione di riso e di pesce salato, con un pezzo di pane per giunta, non potei non sentirmi certo che in un'ottima prigione come quella non mi si dovesse fare piena giustizia. E poi, mi dissi, il nuovo governo era buono e mi avrebbe pur permesso di spiegarmi davanti al tribunale. Ogni mattina, mi dicevo, oggi sarò chiamato. Da lungo tempo avevo preparato il mio discorso, buttato supino la notte sul letto di assi, gli occhi fissi sul pezzo di cielo durante il giorno, avevo preordinato ogni parola della mia arringa, la quale pressappoco sarebbe stata del seguente tenore. Signori, vi prego, di che cosa sono accusato? Io non appartengo ad alcun partito rivoluzionario. Era vero, in quel tempo non ci appartenevo ancora. Lavoro sodo per tutta la giornata e non lascio quasi la città degli studi, non ho che un'ambizione, quella di laurearmi con lode, di assicurarmi un buon impiego e di pagare i debiti arretrati. Quando tutto questo sarà fatto, conto di fondare una scuola nel mio villaggio. La gente laggiù è poverissima, i venti sono aridi e i raccolti miseri, la terra dà appena il necessario per non morire di fame e talora neanche quello, negli anni di carestia. Le tasse per contro sono esorbitanti, tasse militari, tasse sull'oppio e tutte le altre tasse, giacché, sebbene noi si possa vendere al governo tutto il nostro oppio con gran facilità, lo stesso governo ci tassa in anticipo e in misura così gravosa che non resta che un minimo margine di profitto per coltivare l'oppio in luogo del frumento. Tutte queste difficoltà mantengono la mia gente in uno stato di cronica povertà e questo spiega perché non ci sia denaro sufficiente per istituire delle scuole. Ma io sono sempre stato fautore dell'istruzione. Sin dalla fanciullezza ho sentito il bisogno di conoscere tutto il conoscibile, così la mia gente ha risparmiato, soldo per soldo, tutto il necessario per mandarmi a scuola in questa bella città e qui mi sono trovato benissimo. Signori, dov'è la mia colpa? A lungo mi esercitai a dire tutto questo e molte altre cose ancora, figurandomi davvero di essere davanti ai giudici, gente grave, bonaria, intelligente, che non avrebbe tardato ad accorgersi di aver sbagliato e finalmente sarei stato liberato. Quando la prossima estate fossi tornato a casa, l'avventura avrebbe formato oggetto di un altro racconto, quello del mio arresto per errore. Avrei detto ai miei della bella prigione nella quale ero stato rinchiuso, della provvidenziale bellissima coperta, dell'ottimo vitto che mi si somministrava 2 volte al giorno. Nessuno al mio paese mangia più di 2 volte al giorno e nell'inverno, quando si lavora meno, forse si mangia una volta sola, giacché buona parte della giornata è passata dormendo. Io cercavo di dormire nella mia cella, ma sebbene tutto fosse tranquillo e in ordine, non mi riusciva che il mio pensiero era sempre fisso sull'imminente chiamata per comparire davanti ai giudici. Ma non fui chiamato. I giorni si seguirono e l'unica faccia che mi era dato vedere era quella del guardiano che mi portava da mangiare. A costui finii col chiedere: «Ma non sarò sottoposto a regolare processo?» «Non ne so niente», rispose. «Eccoti il tuo riso», e uscì. L'impazienza mi rodeva, finì con l'esasperarmi, cominciai a supplicare il guardiano: «Ve ne prego, informatevi un poco sul mio processo, ve ne supplico». Ma quello si limitò a scuotere il capo. «Mi è fatto divieto di parlare ai prigionieri», disse, e di nuovo uscì. Io portavo sempre alla cintola una piccola somma di denaro, il necessario per la tassa scolastica. Per puro caso il gruzzolo mi era stato lasciato perché all'ingresso della prigione, in luogo di essere mandato al bagno e rifornito di nuovi abiti, mi dissero che il bagnino quel giorno era uscito a cioncare in certa festa nuziale nella casa di suo fratello e così fui fatto senz'altro passare nella cella nella quale fui rinchiuso e dimenticato e conservai il mio denaro. Un giorno ne offrii la metà al guardiano nel palmo teso. «Per favore, indagate un po' sul mio processo, eccovi un po' d'argento». Il guardiano fece tanto d'occhi, ma prese lo stesso il denaro senza dir motto. Il giorno appresso mi disse bruscamente: «Non ci sarà processo, sei un prigioniero politico e la tua colpa è provata». «Ma se non so neanche di quale delitto io sia incolpato!» esclamai. «Su questo punto non ho fatto indagini», disse il guardiano. Mi strappai la cintura di dosso e versai tutto il suo contenuto nelle mani del guardiano. «Cercate di sapere di quale delitto sono incolpato», supplicai. «Questo è tutto quello che ho». Quando il guardiano se ne fu andato, Sedetti sul letto, tremavo tutto, sudavo, mi pentii di avergli detto di non avere altro denaro. Forse, infatti, se lo sarebbe tenuto senza dirmi nulla, sapendo che non c'era altro da aspettare. Ma il carceriere era un buon diavolo e il giorno dopo mi disse: Ho interrogato una guardia che ha un fratello scrivano al tribunale e precisamente nell'ufficio segnaletico. Da lui ho saputo che tu hai scritto qualche cosa in un giornale straniero per informare gli stranieri che il nostro paese è povero e affamato, che il governo tassa gravosamente il popolo e che lo stesso governo compra l'oppio per proprio conto. Così gli stranieri leggono e ci dileggiano e ci disprezzano. Ecco il tuo delitto. Ma non ho mai detto questo! Esclamai allibito. Eppure risulta così. Quella notte mi fu impossibile dormire. La mente riandava al mio componimento incriminato. Ricordavo che Miss Maitland ne aveva fatto oggetto di lode, lo aveva letto in classe ad alta voce. Questo è un pezzo così bello che vorrei che gli inglesi lo leggessero e capissero quanto i cinesi amano il loro paese. Liu e Lan, che cosa ne dici dell'idea di mandare il tuo scritto al giornale inglese per il concorso a premi? A quella proposta avevo sentito il sangue darmi un tuffo e mi dedicai con pazienza ed entusiasmo a ricopiare il pezzo con tutte le correzioni fatte da Miss Maitland. Poi lo avevo mandato con una lettera al direttore del giornale inglese, il quale mi diede il premio e pubblicò l'articolo, facendolo precedere da una nota che diceva: Capita di rado di ricevere un'analisi così onesta ed obiettiva come questa che ci invia un giovane patriota cinese. Quando lessi queste parole sentii il petto gonfiarmisi di orgoglio. Ai Wan interruppe la lettura. Sì, ricordava il saggio del suo amico. Anche loro dalla scuola d'inglese avevano partecipato al concorso indetto dal giornale inviando saggi e Liu Enlan, sì, certo, era quello il nome dell'autore del pezzo che aveva riscosso il premio. Ma nessuno ne aveva poi più udito parlare e presto la cosa era stata dimenticata, lui stesso, Ai Wan. Non ci aveva pensato fino a questo momento.